Radio 24 Reportage. L'ultima notte di Walter Benjamin. A cura di Tiziano Bonini. 3 luglio 2010. È un pomeriggio caldissimo. Siamo sulla Route Lister, al confine fra Francia e Spagna, sui Pirenei meridionali. La Route Lister è un vecchio sentiero di contrabbandieri che unisce i paesini di Banyuls-sur-Mer in Francia e Portbou, Spagna. Questo è il sentiero percorso da Walter Benjamin per passare in Spagna e da lì proseguire per gli Stati Uniti. Siamo venuti quassù a ripercorrere i suoi passi. 70 anni fa la scena doveva essere più o meno questa. 24 settembre 1940. Un uomo sta risalendo a fatica un vecchio sentiero per contrabbandieri sui Pirenei meridionali. Insieme a lui c'è Lisa Fitco, la sua guida. 40 anni dopo, la donna ricorderà così quella notte. Camminava lento e pesante. A intervalli irregolari, penso fosse ogni 10 minuti, si fermava e riposava per un minuto. Poi riprendeva il cammino, con il solito passo. Mi aveva detto che ci aveva pensato durante la notte. Posso arrivare fino in fondo con questo metodo. Mi fermo ad intervalli regolari, prima di arrivare a sentirmi esausto. Non bisogna andare oltre le proprie forze. Quell'uomo è Walter Benjamin, filosofo ebreo tedesco in fuga dal nazismo. Bruno Arpaia, che ha scritto un bellissimo romanzo sulla sua vita, L'angelo della storia, e ha passato 10 anni a fare ricerche su di lui, ci racconta chi era Walter Benjamin. Sicuramente era, come dicevano tutti quanti all'epoca, una delle persone più geniali del Novecento, però doveva essere una persona assolutamente difficile. Era inetto assolutamente di fronte alla vita, quindi aveva comunque bisogno di aiuto materiale in qualunque cosa. E però era una persona a cui non piaceva essere aiutato, era una persona ossessiva, era uno che faceva fatica a vivere, cioè a fare le cose minime della vita, no? Poi quest'aura di tecnicamente parlando di sfiga che gli si metteva addosso, ce lo rende questo destino così, insomma, me lo rende, come dire, è un perdente nato e me lo fa essere più vicino e più simpatico. Nel settembre del 1940, con l'arrivo dei tedeschi in Francia, Walter Benjamin ha finalmente deciso di abbandonare Parigi e l'Europa. Lascia una valigia al suo amico Georges Bataille, con dentro la sua ultima opera incompiuta, I Passaggi, il quadro di Paul Klee, che ha sempre portato con sé e poco altro, e si mette in viaggio verso il confine. L'amico Theodor Adorno gli ha procurato un visto per gli Stati Uniti, ma deve prima uscire dalla Francia e può farlo solo clandestinamente. Un amico gli consiglia di andare a Port-Vendre e di contattare una donna, Lisa Fitco, che lo aiuterà a scappare. Lisa Fitco è giovane, non è esperta di montagna e non ha mai fatto scappare nessuno. Benjamin sarà il primo. Grazie a lei, poi, centinaia di intellettuali europei riusciranno a fuggire in America. Walter Benjamin e Lisa Fitco partono da Port-Vendre a piedi, il 24 settembre 1940. Noi abbiamo rifatto il loro stesso percorso, attraversando vigne, boschi, lecceti, pini marittimi. Il paesaggio non deve essere molto diverso da allora. È un sentiero bellissimo che sfiora l'orlo del mare per poi salire ripido su per le ultime creste pirenaiche. Un sentiero che negli ultimi 10 anni è stato riscoperto, restaurato, segnalato. 70 anni fa, però, non era così facile trovare la via verso il confine. In più, Walter Benjamin soffriva di cuore e saliva lento, con una valigetta di pelle nera in mano. Non vuole cederla a nessuno. Contiene il suo ultimo lavoro, forse una copia dei Passaggi. Si accampa per la notte a metà strada, sul Col del Bast, poco sopra Banyuls, e aspetta l'alba. Seguendo le indicazioni del diario di Lisa Fitco, anche noi siamo passati da qui. Sono quasi le 8 di sera di sabato 2 luglio e siamo a circa 500 metri in mezzo. Siamo appena usciti da una serie di vigne e stiamo per arrivare al Col del Bast, dove secondo il diario di Lisa Fitco dovremmo trovare la radura dove Benjamin passò la notte. Il 25 settembre all'alba Benjamin prosegue per il confine. Lisa Fitco riesce a trovare la via e lo accompagna fino in cima, come ricorda nel suo diario. Finalmente raggiungemmo la cima. Io ero andata avanti e mi ero fermata per guardarmi attorno. La scena spettacolare apparve così inaspettatamente che per un momento mi sembrò di avere un miraggio. Sotto di noi, da dove eravamo saliti, il blu intenso del Mediterraneo. Sull'altro lato, di fronte a noi, scogli acuminati si immergevano in un altro mare, piatto e turchese. Era la costa spagnola. Non avevo mai visto niente di così bello. Lisa Fitco aveva ragione. Dopo tanto camminare, la vista del mare sembra un miraggio. Quando arrivi in cima alla cresta francese, scopri finalmente il mare spagnolo e la vedi laggiù, Portbou. Per un attimo anche tu pensi, finalmente, di essere in salvo. Vento e pioggia si arrestano, non vanno oltre, come se il peggio fosse alle spalle. Dall'assù inizia una ripida discesa verso il mare. Benjamin ce l'ha fatta. Nel giro di 3 ore scende al paese e, su consiglio della Fitco, si presenta alla polizia spagnola con il suo visto per gli Stati Uniti. Ma viene arrestato. Cammina da 2 giorni, è stremato. La polizia gli permette di passare la notte in un hotel del paese per respingerlo in Francia il giorno dopo. Quella notte, nella stanza numero 4 dell'hotel Fonda de Francia, in Avenida General Mola al 5, Benjamin prende la morfina che ha con sé e decide di farla finita. Indietro non tornerà mai. Bruno Arpaia non crede al destino, ma è vero che Benjamin è particolarmente sfortunato. Uno può credere o meno nel destino, probabilmente io non ci credo, però se qualcuno incarna un destino segnato in qualche modo è Walter Benjamin, cioè il modo in cui a piccoli passi, appunto zoppicando, si è avvicinato a quella notte in quell'alberghetto di Portbou è incredibile, ed è incredibile il fatto che soltanto nel giorno in cui lui decise di partire e di fare la traversata gli poteva capitare quello che era successo. Cioè quella mattina, esattamente quella mattina, arriva da Madrid dai doganieri l'ordine di respingere quelli che non avevano il visto d'uscita dalla Francia. Se lui fosse partito un giorno prima sarebbe arrivato sano e salvo a New York. Se avesse deciso di partire un giorno dopo, gli sarebbe arrivata a Portvendres o a Bagnols-sur-Mer la notizia che c'era questo strano blocco, avrebbe aspettato una settimana e sarebbe poi passato. Poi ripeto, io non credo nei destini segnati, però certamente è incredibile quello che gli è successo. No? Benjamin muore a Portbou il 26 settembre del 1940. Nessuno lo conosce. Gli anziani del paese oggi lo ricordano così. Éramos muy jóvenes, tendríamos pues nel 40 pues 12 años. Eravamo molto giovani, nel 40 avevamo 12 anni e questo signore fu ospite di qui, ma qui c'erano degli agenti tedeschi che lo cercavano e secondo quanto hanno detto si suicidò. Personalmente non lo incontrammo, anche se abitavamo vicino all'hotel. Quello che abbiamo saputo è che era morto un signore straniero in un albergo di qui e nient'altro. Si seppe poco in quel momento. Poi la storia ha fatto il suo corso. Poco ma se supo in quel momento. La storia. Era un filosofo piuttosto liberale. Veniva dalla Germania, perseguitato perché era ebreo. Passò in Francia, voleva emigrare in Nord America via Lisbona e quindi passò il confine qui. Però pare che la Gestapo avvisò il regime spagnolo, Franco, che lo stavano cercando e lo arrestarono. Qui nasce il dubbio se si suicidò o se lo uccisero. Però era diretto in Portogallo e poi negli Stati Uniti. Però il destino era Portogallo e Stati Uniti. L'albergo non c'è più da molto tempo. Al suo posto una nuova casa con le pareti rosse. Al numero 5 c'è una targa che lo ricorda. Mara Anglì, una ragazza di Portbou, ci ha accompagnato a visitarla. In questa casa vivió e morì Walter Benjamin, che dijo: tutto il conoscimento umano prende forma di interpretazione. Tutto il conoscimento umano prende forma di interpretazione. Walter Benjamin. Oggi Portbou è un paese silenzioso, lontano dalle rotte turistiche, con una bella spiaggia, una piccola rambla e una stazione immensa, a memoria dello splendore vissuto nel Novecento. Come ci ricorda Johan Gubert, presidente della Fondazione Walter Benjamin di Portbou. Pensa che Portbou in suo momento bueno era un pueblo dove la gente vivia muy bien. Pensa che Portbou nel suo momento migliore era un paese molto ricco dove la gente viveva bene. C'erano 2 cinema dove passavano film prima che a Barcellona e a Madrid, e perché quando le pellicole arrivavano da fuori si fermavano qui un paio di giorni, le proiettavano e poi proseguivano per le grandi città. Portbou aveva un potere economico che ora è scomparso. In questo caso crediamo che Walter Benjamin. E in questo caso crediamo che Walter Benjamin può darci un aiuto fondamentale dopo la caduta dell'economia legata alle ferrovie e alla dogana per inaugurare qui un turismo familiare, colto, che aiuti il paese. È un tassello fondamentale di sviluppo. Sería, digamos, una de las piezas fundamentales de todo el desarrollo futuro de Portbou. La clave de Walter Benjamin y todos los exiliados. La chiave della memoria di Walter Benjamin non sta solo nell'omaggiarlo, sta soprattutto nel ricordare tutte quelle persone anonime che si sono trovate nelle sue stesse condizioni di esiliato e clandestino, allo stesso modo di Machado, esiliato repubblicano che morì in Francia e che passò da qui. Come con Machado, è la figura simbolica più che la persona che conta. Walter Benjamin ci ha dato l'opportunità come fondazione di riflettere sull'esilio, non solo quello dalle guerre, ma anche gli esili più contemporanei, di natura sociale ed economica. Los exilios, pero no solamente de las guerras, sino lo que económicos, sociales. Il nostro viaggio sulle tracce di Benjamin è arrivato alla fine. L'ultima tappa è il piccolo cimitero del paese, dove giace la sua tomba ricordo. Dentro al cimitero, il silenzio è rotto solo dal vento e dai treni più in basso. Accanto ad esso, nel 1994, è stato inaugurato il Memorial Benjamin, progettato dall'architetto tedesco Dani Caravan. Un passaggio stretto, che esce dalla montagna come un tunnel all'aperto e guida il visitatore per una scala che scende, quasi fosse nel vuoto, verso il mare. Ed è qui, di fronte al mare, che termina la storia di Walter Benjamin e il nostro viaggio. Di fronte a noi, in fondo alle scale del memoriale, un'ultima citazione di Benjamin scherma lo sguardo dal mare. È più difficile celebrare la memoria dei senza nome che quella degli uomini celebri. La costruzione della storia si è dedicata ai senza nome. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.